L'altro pianeta di Laura Bettini. E ben ritrovati per questa puntata nella quale affronteremo due diversi argomenti. Nella seconda parte parleremo di vendite di prodotti alimentari di alta qualità italiani su internet, mentre in questa prima parte ricordiamo anche noi l'anniversario del terremoto e tsunami in Giappone, che è ricorso questa settimana, l'11 marzo per la precisione. Un evento che fece, ricordiamo anche questo, 18.000 tra morti e dispersi e che danneggiò irreparabilmente la centrale nucleare di Fukushima. Le conseguenze di questo particolare incidente sono tuttora gravissime e ne abbiamo parlato con Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. Perché? Perché Greenpeace segue fin dalle prime ore le ricadute dell'incidente nucleare di Fukushima. Anzi, fu proprio questa associazione ambientalista a valutare per prima come gravissimo quanto accaduto in Giappone. E la sua diagnosi fu poi confermata nei mesi successivi al disastro dai rilievi della AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che disse che il disastro di Fukushima è stato tanto grave quanto quello di Chernobyl. Con Giuseppe Onufrio però abbiamo parlato non solo di Fukushima, ma anche della transizione del Giappone verso le rinnovabili e di politiche energetiche italiane. E questa è la nostra conversazione. Nel 2015 ancora circa 300.000 tonnellate di acqua altamente contaminata sono stoccate in circa 1.000 serbatoi che sono stati assemblati dal 2011 a oggi. E altre 300.000 tonnellate quasi sono state decontaminate, tranne che dal trizio, che è l'acqua che contiene idrogeno radioattivo, perché non si sa come decontaminarla ancora. E c'è tuttora una guerra dell'acqua, cioè il problema principale a Fukushima è gestire queste quantità enormi di acqua che si contamina, che sono tra una cosa e l'altra sono circa 800 metri cubi al giorno che si aggiungono. Quindi situazione, questa è l'acqua fondamentale, situazione terra, diciamo, ma aree circostanti? E per quanto riguarda le altre questioni, l'unica notizia positiva è stato lo scarico del combustibile irraggiato nella piscina del reattore numero 4, che è avvenuto nel 2005 a novembre. Questo è stato, diciamo, il successo principale. Adesso c'è la piscina del reattore numero 3, che ha circa 500 passa barre di combustibile. Lì la situazione è molto più delicata, perché è un'area estremamente radioattiva e quindi il personale non può andare. Andrà fatto un'operazione molto più complicata da remoto, e la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che ci sono tutte le macerie del reattore esploso, e quindi non è semplice anche da remoto, quindi è ancora più complicato. E poi per il resto ricordiamo ci sono ancora 120.000 persone che sono fuori dalle loro case e non si sa bene quando potranno mai tornare. È una quantità crescente di rifiuti radioattivi che provengono dalla decontaminazione di città e villaggi che sono oggi stoccati in circa 54.000 siti. Questo è un altro aspetto paradossale della situazione, perché le aree, c'è un continuo lavoro di decontaminazione che però viene costantemente annullato dal fatto che il territorio, la campagna e le foreste sono contaminate, e quindi il vento e la pioggia riportano contaminazione nelle aree già decontaminate. E effetti sulla salute delle persone si cominciano, immagino, ad avere dei rapporti più precisi, insomma, ormai dopo 4 anni? Purtroppo le conseguenze più gravi ci vuole più tempo. Sappiamo che c'è monitoraggio soprattutto per quanto riguarda la tiroide e i bambini. Noi non stiamo in questo momento creando ulteriore allarme. Quello che a noi sembra molto sembra veramente una situazione ai limiti dell'assurdo, e questa situazione per la quale per poter fermare questo costante flusso di acqua si sta costruendo ora una sorta di frigorifero, si sta cercando di refrigerare 1,5 chilometri di costa a meno 30 gradi per cercare di ghiacciare l'acqua. Questo ancora è in corso con diversi ritardi, e questa operazione dovrebbe, secondo i piani, congelare l'acqua per 6 anni, tempo nel quale bisognerebbe sigillare i reattori. Ma in realtà al momento attuale, dopo 4 anni, nessuno sa dove è finito il combustibile fuso, quindi si sa che è dentro il reattore ma non si sa esattamente dove, e quindi siamo ancora al paradosso che a 4 anni il problema principale, cioè isolare il combustibile fuso, è ancora assolutamente, siamo ancora assolutamente privi di informazioni, nessuno sa esattamente dove e quindi cosa esattamente fare. Abbiamo detto fino adesso degli impatti sul Giappone, e per quello che riguarda gli altri paesi, gli oceani, ci sono già dei riscontri? No, direi che per quanto riguarda la contaminazione dell'acqua, anche se dei nuclidi viaggiano e quindi vengono anche in traccia, trovati anche a lunga distanza, il problema fondamentale è la contaminazione delle acque prospicienti di Fukushima, e quindi parliamo di qualche cosa, abbiamo fatto delle analisi e ritroviamo contaminazione, diciamo, di un certo rilievo a alcune decine di miglia dall'agosto, ma non di più. L'ultima questione, il nucleare, cioè la produzione di energia nucleare in Giappone, quello che è accaduto a Fukushima ha avuto una grande ripercussione sull'opinione dei giapponesi, adesso come si stanno evolvendo le cose? Lì per lì ovviamente tutti no, non ne vogliamo più adesso? Beh, adesso c'è una forte opposizione al nucleare, ricordiamo che il Giappone ha dovuto chiudere tutti e 48 i suoi reattori che diciamo, producevano quasi il 30% dell'elettricità, e questa cosa è avvenuta senza che ci sia mai stato in questi anni nessun blackout. Questo grazie al fatto che abbiamo avuto una prova sul campo di come le misure di efficienza energetica e anche in parte le rinnovabili hanno consentito una gestione della situazione. C'è stato ovviamente un aumento del consumo di gas, ma quello che è importante è che un paese come il Giappone, che si basava per il 30% sul nucleare, è andato avanti sostanzialmente senza poterne fare a meno, che dimostra come le cose, le alternative energetiche, una combinazione di alternative energetiche che ovviamente vanno poi sviluppate nel corso degli anni, ha potuto dare delle risposte anche a breve. E certo, questo significa che si può fare, loro addirittura l'hanno fatto in emergenza, cioè non è che si stavano preparando questo percorso. No, è stato un colpo praticamente nel giro, dobbiamo pensare che progressivamente i reattori sono stati spenti e dal 2013 praticamente sono stati senza nessun reattore, ora stanno per riaccenderne alcuni, due i prossimi, ma la questione fondamentale è che quello che nel mercato internazionale sta succedendo, noi vediamo che Fukushima ha avuto effetti sicuramente a livello globale, nel senso di un ripensamento di diversi paesi, e vediamo che anche i paesi il cui ripensamento, diciamo, è stato parziale, è stato solo un rallentamento, come la Cina, che rappresenta il paese in cui si stanno costruendo più reattori nucleari, in Cina per il secondo anno consecutivo in realtà l'eolico produce più del nucleare. Questo per dire che la rapidità della risposta delle fonti rinnovabili è molto più elevata, perché per costruire gli impianti a fonti rinnovabili ci vuole molto poco tempo, mentre il nucleare lo vediamo in Europa, sia in Finlandia che in Francia, praticamente i reattori che avremmo dovuto costruire noi in Italia sono in grandissima difficoltà, e il produttore francese Areva ha oggi segnato una perdita di circa 5 miliardi di euro, che è maggiore del valore della sua capitalizzazione, quindi potremmo dire tecnicamente fallita. Quindi questo per dire che siamo per fortuna in un'epoca in cui le alternative possono dare delle risposte concrete e raggiungiamo più ambientalmente sostenibile e producendo più occupazione. È una questione di volontà. È una questione di visione e anche di volontà, e io voglio anche ricordare recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Enel Starace, che di fatto prende atto della nuova situazione, e mi pare che anche in Italia ci sia finalmente un'area diversa da qualche mese, e per noi è una grande speranza anche in vista della conferenza di Parigi. Le alternative esistono, sono industrialmente mature, si può fare ancora di più, è importante che le politiche, come è successo in Germania, non vadano a stop and go, come purtroppo invece avviene in Italia, perché soltanto una stabilità delle politiche energetiche consente agli operatori di fare investimenti con tranquillità. Certo, però poi l'Italia ha anche il grave difetto non solo che fa stop and go, ma che a volte torna proprio indietro e guarda insomma strumenti ormai che dovrebbero essere superati. Questo dico io, non è che non voglio, sì, no. Sì, vabbè, perché purtroppo ci sono anche interessi o insomma, sì, comunque mancanza di visione, anche appunto quello che diceva lei. Sì, ci sono sono interessi, guardi, interessi ci sono sempre, sono anche legittimi. Il punto è che ormai in Europa, direi che dopo Fukushima, noi possiamo dire esiste una parte dell'Europa che sta abbandonando il nucleare o ha già abbandonato e punta con decisione su efficienze rinnovabili, e parliamo di alcuni paesi scandinavi, della Germania, dell'Austria, ora anche della Svizzera e dell'Italia e della Spagna. E poi c'è un'area ancora che pensa di puntare al nucleare, che è la Francia e la Gran Bretagna, che però sono in difficoltà e molto forti, sia per questione di costi, sia perché la sicurezza di una tecnologia che ancora non è provata, nel senso che i reattori di terza generazione ancora non funzionano, porta costi al di sopra di quelli delle rinnovabili. Beh, si può allargare un po' il discorso anche in generale ai combustibili fossili, forse in questa chiave, certo, i costi superiori e benefici. Sì, noi abbiamo oggi un dibattito in Europa sulla Unione Energetica, che è fatto sostanzialmente per dare un segnale alla Russia, ma noi gli ambientalisti da tempo che diciamo, guardate che esiste un modo molto rapido, l'abbiamo visto in Giappone, per ridurre i consumi, che è quello dell'efficienza. A parole l'efficienza viene richiamata da tutti, io voglio ricordare un importante documento di Confindustria del 2010, viene detta anche dall'Enel, però purtroppo sull'efficienza, per esempio, obiettivi vincolanti non ci sono e le politiche sono anche qui deboli. Grazie a Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo, ricordo, di Greenpeace Italia. Facciamo una pausa per il traffico, poi cambiamo argomento, parliamo di alimentazione. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Dopo aver ricordato il quarto anniversario del terremoto e tsunami in Giappone, nonché del disastro di Fukushima, cambiamo ora argomento come promesso. Parliamo di vendita di prodotti enogastronomici italiani su internet, una vendita che è sempre più diffusa e sempre più di successo, tanto che ebay.it ha registrato un più 17% nel 2014 e ha deciso di scommettere su una ulteriore crescita, azzerando le commissioni per i venditori sulla sua piattaforma. Questa scommessa sul futuro eBay l'ha recentemente presentata a Milano in un incontro cui erano presenti anche Coldiretti ed AICIG, cioè l'associazione che riunisce i consorzi delle indicazioni geografiche tipiche, quindi DOP e IGP, ed anche il Ministero delle Politiche Agricole, che in questo contesto interviene contro truffe e contraffazioni. Ma andiamo per ordine, facciamo prima il quadro generale con Claudio Raimondi, che è country manager di eBay in Italia, e sentiamo i numeri di questo mercato. Il segmento del grocery in Italia vale l'1% di tutto l'e-commerce italiano, ma non c'è solo l'Italia, ci sono tanti tanti paesi all'estero che non vedono l'ora di comprare alimentare, non vedono l'ora di comprare alimenti italiani. Lei pensi che il 63% di tutte le imprese italiane che vendono su ebay.it esportano anche verso l'estero in oltre 178 paesi. Per darle una chicca, il settore del grocery nel Regno Unito è più grosso di tutto l'e-commerce in Italia. Dettagli proprio. Quindi c'è prospettive, c'è possibilità, possibilità di sviluppo futuro, direi. Sì, dettagli, ma anche grossissime opportunità che vengono ancora di più amplificate con l'iniziativa che abbiamo fatto oggi di azzerare completamente le commissioni sull'agroalimentare. Quindi vendere su eBay adesso costa zero per le imprese italiane. Il vostro guadagno sta nel preparare il negozio, diciamo, nel momento in cui l'inserzionista crea il negozio e quindi... Devo essere trasparente? Lo spazio, diciamo. No, mi lasci essere proprio trasparente. Il nostro guadagno sta nello sviluppare un mercato che è sempre più importante che si sviluppi, che in Italia sta correndo a ritmi incredibili, ma ancora indietro rispetto a mercati più importanti come Regno Unito, Francia, Germania o Stati Uniti. Quindi il nostro ruolo è un ruolo di partner, è un ruolo di responsabilità date le dimensioni che abbiamo, e vogliamo che questo mercato si sviluppi sempre di più per i consumatori, ma anche per le tante aziende italiane che oggi faticano magari con la situazione economica che c'è. A proposito di responsabilità, avete coinvolto in questo il Ministero delle Politiche Agricole, proprio per poter garantire questo... Sì, più che coinvolto abbiamo fatto una cosa a quattro mani, anzi a sei, contando anche quelle di AICIG, che ci ha permesso di firmare un protocollo di intesa tra il Ministero, AICIG ed eBay per proteggere tutti gli IGP e i DOP italiani. Quindi su eBay, il grana padano piuttosto che il parmigiano reggiano o il prosciutto di Parma e tanti altri IGP hanno la stessa protezione dei grandi marchi della moda, della tecnologia o dell'arredamento. Quindi convivono sia i prodotti DOP e IGP che hanno questa verifica da parte del Ministero di AICIG, sia prodotti che formaggio italiano, non di quelli tutelati, che comunque possono essere venduti attraverso il canale. Assolutamente sì, sono tutti tutelati da tre cose: il programma Vero, che difende i produttori titolari di proprietà intellettuali sul prodotto e sul marchio, il sistema di feedback, quindi la comunità, i consumatori che lasciano un feedback ai venditori, e poi tante iniziative come quella che citavamo adesso del protocollo d'intesa con il Ministero, che sono volte a proteggere o a tutelare quelle realtà che sono ancora un po' più particolari, che ci rendono così orgogliosi come IGP e DOP. Raimondi ha introdotto la questione chiave per noi all'altro pianeta, la contraffazione di prodotti di particolare pregio come DOP e IGP. Un truffatore che voglia guadagnare sui prodotti alimentari va infatti a contraffare le DOP e le IGP, perché può fare una cresta, diciamo così, molto più alta al prodotto che mette sul mercato se lo spaccia come appunto un prodotto DOP o IGP. Come abbiamo anticipato, eBay si è alleata un anno fa direttamente con il Ministero delle Politiche Agricole per contrastare questo tentativo di frode. E al Ministero Stefano Vaccari è capo dell'Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari. L'accordo tra Ministero delle Politiche Agricole, eBay e AISIG, che il ministro Martina ha sottoscritto a maggio dell'anno scorso, ha avuto dei risultati eccellenti. Oltre 150 prodotti tolti dallo scaffale informatico, una collaborazione strettissima che ha fatto crescere molto anche l'e-commerce, perché comprare sull'e-commerce sapendo che ci sono dei controlli uguali a quelli di un altro mercato è un valore aggiunto per il consumatore. Il consumatore sa che un e-commerce controllato è un mercato più sicuro, ed è quello che noi cerchiamo tutti i giorni di fare. Fra l'altro potranno esserci ulteriori approfondimenti su questo protocollo, che ha funzionato benissimo anche in termini di rapidità. I prodotti che ci vengono segnalati non regolari su eBay vengono rimossi dopo che è stata fatta la verifica insieme ad eBay nel giro di poche ore, quindi un accordo che funziona in termini di ore, che per l'Italia è un risultato discreto. No, non è straordinario, quindi diciamo che il meccanismo funziona non solo se c'è un consumatore, diciamo un cliente che vede qualcosa che non va, ma soprattutto perché il Ministero è promotore di questo controllo. Assolutamente, noi abbiamo decine di ispettori che battono, nel caso di dire, il mercato elettronico in continuo, come facciamo su un mercato tradizionale. Cioè, quello che veramente vogliamo comunicare è che l'Italia è uno dei pochi paesi in cui la struttura maggiore di controllo, in questo caso l'ICQRF, il Ministero delle Politiche Agricole, controlla il web come se controllasse un mercato. E questo fa dell'Italia, e lo voglio ricordare, l'Italia ha il sistema di controllo più efficace d'Europa, ma probabilmente anche del mondo per i prodotti di qualità, fa dell'Italia un paese molto più sicuro di altri. Il livello qualitativo delle produzioni italiane è così alto anche perché c'è un livello di controlli così alto. Forse dovremmo vendere più questo elemento di marketing. Vendiamo prodotti che hanno alle spalle un gran numero di controlli. Senta, lei ha detto che il Ministero controlla il web o controlla eBay, perché un conto è quella specifica, o comunque voi tenete sotto controllo comunque tutto quello che passa? Allora, in termini di risultati, con eBay abbiamo fatto un accordo che ci ha consentito di essere estremamente efficaci. Sul resto del web non siamo così efficaci, perché molti dei players sono al di là dell'Unione Europea. All'interno dell'Unione Europea noi abbiamo un meccanismo di protezione dei nostri prodotti a indicazione geografica molto forte, e quindi riusciamo a bloccarli. Quando però, per esempio, caso tradizionale, il venditore di parmesan americano non lo posso bloccare negli Stati Uniti, perché in America lo può vendere. È quando viene in Europa che non lo può più vendere. Allora, molti dei grandi players dell'e-commerce sono fuori dell'Europa. In quel caso è veramente molto difficile. Confidiamo molto negli accordi TTIP e quindi in una maggiore tutela delle indicazioni geografiche negli accordi bilaterali. Ok, quindi sono due piani. Magari eBay in questo può aiutare verso l'ebay.com invece che .it? Ah, su questo entriamo su scenari decisamente giganteschi. Diciamo che in Europa con eBay abbiamo lavorato benissimo. Noi ci auguriamo di fare la stessa cosa adesso con gli altri grandi players, speriamo. punta molto al web, soprattutto per la diffusione dei prodotti italiani nel mondo, Pier Maria Saccani, che è il segretario generale di AICIG, che, come abbiamo già detto, raggruppa i consorzi DOP e IGP italiani. Ma io credo che questa esperienza sia un'esperienza particolarmente positiva, perché vede il settore privato che va, diciamo, in parallelo al settore pubblico come tutela, per cui ha generato dei grandi riflessi positivi, perché si sta creando una protezione in un mondo molto delicato come quello internet, che possa favorire una corretta commercializzazione dei prodotti DOP IGP attraverso il canale telematico. Sicuramente sono esperienze che dobbiamo prendere in considerazione anche per il futuro. In questo anno ha generato tanti riflessi positivi. Quindi, cioè, è stato un canale utile per chi produce DOP IGP, che magari ha potuto qui trovare possibilità di vendita che altrove non trovava? Ma allora, probabilmente i riflessi positivi si sono avuti più per i consorzi di tutela che non per i produttori direttamente, almeno in questa prima fase, perché noi abbiamo focalizzato l'attenzione sulla tutela, dunque su una pulizia del mercato rispetto ai falsi, e su una parte di informazione che è una sezione specifica del protocollo d'intesa, cioè che eBay, attraverso i 150 milioni di utenti che ha, faccia informazione sulle produzioni DOP IGP, che ancora non sono così conosciute come specificità, cioè i dettagli e i particolari delle produzioni non sono ancora così conosciuti al consumatore finale. E fin qui abbiamo sentito gli attori del progetto, ma chi è fuori da questo discorso, ma dentro al quadro dell'agroalimentare italiano, cosa ne pensa di internet e della lotta ai prodotti contraffatti su internet? Maria Letizia Gardoni è delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa. Il web rappresenta sicuramente un contesto e un ambito interessante per la crescita e per il fatturato delle nostre aziende agricole, che hanno così la possibilità di andare incontro a consumatori che altrimenti con altri strumenti non potrebbero mai incontrare. Purtroppo dai nostri studi, che come Coldiretti stiamo facendo con l'Osservatorio sulle agromafie e sui crimini commessi nel settore agroalimentare italiano, abbiamo visto come il web di fatto rappresenta un canale privilegiato per la diffusione di prodotti contraffatti o falsi made in Italy. E da questo punto di vista crediamo che dei controlli ad hoc e adeguati debbano essere dei controlli appunto ordinari all'ordine del giorno, e che hanno l'obiettivo e l'obbligo di andare a denunciare e a eliminare dal contesto web, dal mercato e marketplace, quindi dai mercati virtuali, tutte quelle aziende, tutte quelle realtà che purtroppo gioca uno sporco con in realtà il grande valore delle nostre produzioni agroalimentari. Da quanto abbiamo potuto apprendere, pare che il MIPAF e eBay abbiano stipulato un protocollo d'intesa che ha appunto lo scopo di andare a minare e denunciare le frodi che avvengono sul mercato virtuale. Come Coldiretti non possiamo altro che sostenere questo tipo di attività affinché produttori e consumatori possano avere da una parte la giusta redditività e dall'altra parte la libertà di scegliere un prodotto veramente italiano. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.